Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari ed Antonio Ceccato. Buonasera a tutte le amiche e gli amici di Blu Radio Veneto che si sono messi in ascolto per seguire questa trasmissione. Un saluto da Gesi e un saluto virtuale da Antonio, perché stasera non è presente. Allora, stasera come ospiti avremo due poeti. Abbiamo la signora Renata Alberti. Buonasera Renata. Buonasera Gesi, buonasera a tutti gli ascoltatori. E il poeta Zanatto. Buonasera signor Zanatto. Ah, buonasera Mauro. Mauro, ecco, abbiamo stasera due poeti che ci delizieranno con le loro poesie. Beh, intanto diciamo che andiamo con la prima canzone. E come ospite virtuale, come artista, come cantante, abbiamo Nicola Arigliano. E di Nicola Arigliano cominciamo con la prima canzone, che si intitola Marilù. Quando tu m'hai baciato, son rimasto così senza fiato, incantato dagli occhi tuoi blu. Marilù, oh Marilù. Quando tu m'hai sorriso, ciò che accade spiegare non so, ma nel ciel mi trovai tra le nubi lassù. Marilù, Marilù, Marilù. Dopo tutto, ti sei messa a parlarmi di brutto, mentre un nodo mi andava su e giù. Marilù, oh Marilù. Quando poi ti sei fatta vicina, una nebbia il mio sguardo velò, l'universo scoppiò incoriandoli blu. Marilù, Marilù, Marilù. Quando tu m'hai baciato, son rimasto così senza fiato, incantato dagli occhi tuoi blu. Marilù, Marilù. Quando poi ti sei fatta vicina, una nebbia il mio sguardo velò, l'universo scoppiò incoriandoli blu. Marilù, Marilù, Marilù. L'universo scoppiò incoriandoli blu. Marilù, Marilù, oh Marilù. Eccoci di nuovo in studio con i nostri poeti. E allora, diamo la precedenza alle donne, dai. Cosa dici, Mauro? Ma certamente. Allora, Renata, vuoi cominciare tu? Grazie, Jessy. Intanto vorrei mandare un saluto ad Antonio, che oggi non c'è. Sì, perché ha problemi familiari e quindi... Inviare anche a lui gli auguri più belli per un Natale sereno. E poi ringraziare Eddie, che è in studio. Io volevo iniziare questo... Ma presentati un pochino, Renata, perché sai, è sì, tanto vabbè. Che non vieni. Tu, sì, dimmi un pochino da quando hai cominciato a scrivere, cos'è, come mai ti sei proposta appunto per scrivere poesie, racconti, so che scrivi anche delle belle fiabe. E da quando hai cominciato a scrivere? Ho iniziato 20 anni fa, a 50 anni, Jessy. Sì. Ed è stato un percorso... molto impegnativo ma anche molto soddisfacente, perché praticamente non mi sono più fermata. Ecco, so che hai scritto tantissime cose. Ho iniziato con una favola, ero a letto bloccata per i miei problemi di schiena e praticamente non vedevo neanche quello che stavo scrivendo. Proprio con la mano adagiata sul foglio sopra le lenzuola. E era l'ultimo giorno dell'anno, ma io ero contenta, felice lo stesso di essere viva e di poter essere in un letto e poter scrivere. E che cosa, ecco, hai cominciato? Ho cominciato con una favola, La Margheritina Sola, pensando proprio a quella piccola Margherita che qualche giorno prima l'avevo vista nel mio giardino tutta infreddolita. E quello è stato il mio inizio. Bene, dopo magari la sentiamo se ce l'hai. No, è una favola abbastanza lunga. Comunque è una favola che nel tempo è stata pubblicata in un libro, poi è stata ripresa e pubblicata, scritta anche in Braille, per i bambini ciechi e ipovedenti, un lavoro fatto dall'associazione Robi per appunto per un progetto a scopo benefico. Ho capito, ho capito. E adesso allora andiamo un po' da Mauro. Tu, Mauro, scrivi delle belle poesie, sei una persona molto simpatica, molto spiritosa. Quando hai cominciato a scrivere? Io ho cominciato, si può dire, da sempre, cioè da quando ho l'uso della mano e l'uso delle parole. E comunque nei 50 anni in poi ho cominciato anche a mettermi allo scoperto, ed è stata mia moglie che ha scoperto tutto ciò. Hai scoperto il tuo talento? Sì, aprendo dei cassetti, c'erano parecchi fogli, li ha letti e dopodiché ha detto: questi si possono pubblicare. Io li ho pubblicati e ho chiesto se per favore poteva essere lei l'autrice. Perché io ero un po' troppo timido per affrontare questo mondo letterario. Ho capito. Comunque tu hai scritto anche romanzi? Sì, ne ho scritti due e uno lo sto facendo. E il primo è L'orologio a cronometro. Che l'abbiamo presentato. Parla di un bambino, parla di un'assenza del padre e come viene interpretata questa assenza dal bambino che ha 3 anni. Sì. Allora cominciamo se andiamo sempre lo spazio prima al campo femminile. Renata, tu cosa ci presenti come prima? Allora sì, prima di leggere la prima poesia con cui diamo inizio a questo percorso per me per la prima volta insieme ad un altro autore, sì, ringrazio appunto Mauro che ha accettato di essere vicino a me. Lui è un grande Jesi, le sue poesie... Tutti e due siete grandi, tutti e due, sì. Le sue poesie volano veramente alte. Siete tutti volano alto e io ammiro Mauro e la sua scrittura incondizionatamente, tant'è vero che ho avuto l'onore di fare una prefazione a un suo romanzo. Allora, cosa ci leggi la prefazione del romanzo? No, io adesso inizio proprio con In viaggio dentro me, è un po' l'inizio e il perché io ho iniziato tutto questo lavoro poetico e non. Comunque bellissimo. Ti ringrazio. E volo talmente alto che le mie poesie sono un po' nevose e devono essere sbrinate un poco dal loro freddo, e tu sei molto calorosa e ti ringrazio. Bene, bene. Allora, viaggio dentro me, l'aver conosciuto, imparato, graffiato il dolore della mia fisicità tormentata e scalfita mi ha portato a cercare e ricercare la conoscenza di una polifonica esistenza. Dentro memorie conosciute, ora, vibrazioni liberate attraversano la pelle per far parlare parole per accogliere il tempo nelle mie mani. Compagno di cammino, in viaggio dentro me. Molto bene, molto bene. Ecco, bene. Io ho raggiunto il Montello, tu stai raggiungendo l'Everest con queste poesie. E tu, Mauro, invece come hai cominciato? Con la D sto facendo una raccolta di poesie con l'alfabeto. Vabbè, allora... Allora la D in questo caso mi pareva fosse abbastanza buona, nel senso che forse parla del presente. È breve e ve la dico subito. Come intitolata? Di, solo di. Sì, no. Solo di. Dai una di all'io e diverrai Dio. Aggiungola a distruttore e sarai distruttore. Una semplice consonante modifica il tuo essere. Dite. Ah, è molto impegnativa, è molto vero Gesi? Sì, anche molto concisa, molto... E qui cos'è? Questa poesia fa parte di una siloge o è così staccata? No, fa parte di una siloge che sto facendo in questo periodo. E come l'ha intitolata questa siloge? Alfabeto. Alfabeto. Ecco. Si parla della una sua poesia, la B anche, e man mano... Bene, allora adesso sentiamo Renata cosa ci legge. Allora Gesi, io oggi ho portato ai radioascoltatori un insieme di poesie sulla natura, perché mi sembra che ultimamente soprattutto si stia perdendo la gioia di guardarci intorno. Ho notato in queste ultime domeniche pre-natalizie tutto il rincorrersi in mezzo alle bancarelle. Sì. L'estraniarsi dal vero senso del Natale, certo. E della natura, e perciò io voglio un ritorno, voglio dentro me stessa. Sì. E però mi piacerebbe che fosse che generale. Fosse così, sì. E ricordando l'ultima nevicata di un mese fa in montagna, e sperando che anche qui ci venga dato ancora questo dono, ne ho portate tre sulla neve, per esempio. Allora, va bene. Senti. Nozze d'inverno. Pegno d'amore tra cielo e terra, oggi, dono del cielo alla terra, un bianco vestito di neve e un velo di trina a vestirla da sposa. Bella, molto bella immagine, vero? Treviso innevata, muti brandelli di neve fuoriusciti dalle smagliature del cielo sfarfallano lievi, asfalto e terra si gonfiano ingoiando i rumori. Stordita dal silenzio, dall'aria sottile, si addormenta la città, immobile come una perla dentro l'antica conchiglia. Ah, bella immagine questa, vero? È nevicata a Treviso sulle mura, perché ti dirò che io sono una persona un po' anomala. Quando tutti si rinchiudono in casa, tu vai fuori. Non posso lasciare la neve che cada e non camminarci sopra e non andarla proprio a viverla dentro. Bello. A prendere i fiocchi sulla testa senza ombrello. Penso, io aspettavo che nevicasse, dopodiché prendevo la bicicletta da corsa e andavo per i campi e proprio a guardare questo divino manto che... Ma anche a me piace sentire la neve sulla testa, sui capelli. Vedi, Jessica, che Mauro ed io siamo accomunati un po' amore per la natura non solo per la natura, per tutto quanto da pace. Vedo. Nevicata a Treviso. Neve o candore scende a coprire i bastioni. Si allarga lo sguardo sopra il lento sile. Disegna un nuovo orizzonte e penetra l'equorea incantata sciarpa che vela il sabbioso alveo. Creando delicate ombre, silenziosi fiocchi sfiorano la bianca luce, si sfaldano, si dissolvono nel lucente liquido. Due giochi diversi della stessa partita, sui bastioni a Treviso. Bella, molto bella. E adesso sentiamo Mauro che cosa ci legge, che poi dopo ascoltiamo un'altra canzone. Ecco, io ho portato sempre da inediti dal libro Mia Terra, due poesie sulla terra. Segreto di terra che ha un, diciamo, duple fasta, un doppio senso. Segreto di terra. Segreto di terra racchiuso nel palmo. Attende vita, poi a spaglio sparso nell'umido campo che esala futuri sapori. Il seme che cerca giaciglio per un attimo indugia, indaga il micro universo, ricerca, si espande, chi attecchisce, chi muore, chi avrà dolce o aspro sapore. Non tutto si esalta, non tutto sarà colore. Molto bella. Niente un'altra? Sempre terra? Sì. Un dolce profumo di solitudine esala la terra ancora incolta, mentre la vanga penetra i nudi fianchi e nel silenzio grida la brama del rinascere. In questo inverno che accarezza con sospiro la sua attesa, così nera e grassa di umido humus e foglie secche dormi. E certo il sognare non è vano. Verrà il giorno dopo il gelo di una notte magica che un esile filo crescerà a ringiovanire il volto corrucciato. In un'alba come tante risolleverai il capo per danzare un verdeggiante lento tango con la primavera. Oh, ma siamo proprio poetici, romantici, eh? Sì, io sono molto romanticone. Veramente belle. Beh, adesso ci fermiamo che ascoltiamo una canzone, sempre da Nicola Arigliano, ed è L'amore viene e va. Amore mio, e questo, il primo addio, così hai voluto tu, io lo so già perché non ho saputo mai legarti a me. C'è sempre un giorno in cui l'amore muore, c'è sempre un lei che passa e un lui che va. La luce bianca dentro la notte ha reso fredde queste tue mani, negli occhi tuoi mai più il tempo leggero sulle tue ciglia mai più sarò. C'è sempre un giorno in cui l'amore muore, c'è sempre un lei che passa e un lui che va. Città, l'hai saputo anche tu, nascondimi in te, ora che non c'è più lei. La nebbia dentro la notte colora di fantasmi la lunga strada, da solo tornerò, chi ha perso non lo so, e che importanza avrà se piangerò. C'è sempre un giorno in cui l'amore muore, c'è sempre un lei che passa e un lui che va. l'amore viene e se ne va. Eccoci di nuovo in studio con i nostri poeti Mauro Zanatto e Renata Alberti, ai quali diamo la parola. Renata? Sì, Gesi, ti ho letto qualcosa sulla neve, sì? E però lo stesso fascino alla nebbia. Io lo provo con la nebbia. A me piace la nebbia. Anch'io, guarda, rimango affascinata proprio dal l'odore della nebbia, sì. Dal camminare, sì, nella, sì, nebbia, e dal sentire il profumo della nebbia. Sì. E sono stata affascinata da una fotografia di un nostro fotografo locale di Paderno, Camillo Campobasso. Lui ha fotografato alle 7 del mattino una signora che portava a passeggio il suo cane sulle mura qui nostre trevigiane. Ah. Ed era un'immagine talmente intrigante, perché non erano allacciati con la cintura o d'altro, camminavano ognuno per conto suo, sì, ma vicinissimi. Sì. Ah. Nebbia sulle mura, silenziosa comunione, in piena libertà di piedi e zampe, sopra scricchiolii di brina, catturando profumi esaltati da un'alba sospesa dentro una storia di nebbia. Bella. È stata proprio un'immagine, sì, immediata. Bella. Una fotografia. Una fotografia questa qui. Oltretutto, Camillo Campobasso sarà con una mostra sua e con le poesie di Arianna Bidoli, intitolata In viaggio dentro me, mi rifaccio un po' alla prima poesia che ho letto, una mostra introspettiva della analizzare l'anima. L'anima tua, beh. Sì, e sarà a breve alla Grotta e visitabile alla un intero mese in via Cornarotta a Treviso. Ah, proprio qui vicino, bene, bene. Consiglio i radioascoltatori ad andarla a vedere, bene, perché sarà una bellissima mostra. Bene, bene. Tu, Mauro, cosa ci proponi? Io propongo un po' leggere due poesie, Luna a Creta e Fiore non colto. Luna a Creta. Dimmi che sei sola, tu che lenta ti innalzi dal brullo monte, sfogliandoti in carezza d'onda. T'attendo nel dondolio dell'ansia per poter amare giunonica luce che s'accende. Lì, oltre il faro, nel buio marino, tra fraseggio di scogli, come mia inseparabile sposa. È questo pescatore che attende, la luna nella sua barca. Oh. Chissà, potrebbe addirittura pescare. Addirittura la attende quasi come sua sposa. Esattamente, con ansia anche. Con l'ansia, sì. È bella sta immagine, perché molto probabilmente i pescatori amano la luna veramente, anche perché penso che dia anche a loro un po' di chiarore, se no. E certamente. E tu, Renata? E mi aggancio alla poesia di Mauro, sì, Itinerario di luna. Sì. Il giorno appena passato dà nuova vita alla notte. Una gonfia luna arancione si affaccia alla porta dell'orizzonte, apre il lento ruotare del mare con scagli di luce e sfila con il suo inquieto equilibrio nel misterioso spazio a catturare il cielo. Bella, bellissima, bella, molto bella, molto bella. Ma sono belle queste poesie che parlano della luna, a me piace tantissimo. Ne avete ancora? Certo. Bene. Continuo con Tramonto a Kyrenia e poi lascio a Mauro, che anche lui vai, una oltre. Luna greca come la mia. Ascolta, scusa, Tramonto? Kyrenia è una località di Cipro, dell'isola di Cipro. Ah, ho capito. Dove ho passato le vacanze molti anni fa. Siccome Tirrenia c'è anche qui. Kyrenia con la K. Ah, Kyrenia. La porto quell'immagine dopo una decina d'anni ancora, sì, dentro, sì, il, sì, cuore. Sì. E questa è la magia della natura. E questa, beh, è la, sì, magia della... Certo, ti ha colpito e la porti del cuore. Della luna. Scende il sole dietro la collina, lasciando un cielo di rosa velato. Uno spicchio di luna argentato lo rincorre fin dietro la collina. Sprofonda il sole e dentro l'orizzonte. La luna si incammina verso ponente, si fa fiammella, diventa un puntino per giocare con la collina a nascondino. Ah, bello sta ultima immagine, vero? Bellissima. Mamma mia, che bella, bella, bella. Giocare a nascondino con la collina, pensa che bello. Mandiamo le nostre emozioni, Mauro, ai radioascoltatori. Eh sì, certo. È sera e li invitiamo a guardare fuori della sì. finestra la luna di questa sera. Eh sì. Speriamo si veda. E tu, Mauro, cosa... Fiore non colto. Ah, non riguarda la luna questo, vero? No, non riguarda la luna. Cosa riguarda questa poesia? Spiegala un pochino. Diciamo, quando sei giovane non cogli tanti fiori, li lasci, li trascuri, non guardi tanto al tuo giardino, cerchi, ti affanni a rincorrere la vita e al lavoro e tutto. Quando sei in pensione, come sono in pensione io, hai più tempo per vedere certe cose che ti erano sfuggite allora. Allora sì, solo che raccogli quei fiori che non hai potuto cogliere nei momenti opportuni. Solo che si guardano con occhi diversi quando si è in pensione. Certamente più profondamente e più, con più calore, sì. Con più calore d'animo. Fiore non colto. In questo inverno mi regalo un fiore. Un timido bocciolo che non ho saputo cogliere nella buona stagione. Lo lascerò fra pagine intonse, nell'attesa che il suo profumo, prima di dissolversi, scrivi una poesia. Finita? Sì, sì. Bella, bella, bella. Allora, scusa, mi rileggi l'ultima frase, che l'ultima frase della poesia... Lo lascerò. Fra pagine intonse, non scritte, nell'attesa che il suo profumo, prima di dissolversi, scrivi una poesia. Bella, bella questa ultima frase. Quando tu metti come segnalibro una foglia, dei petali di rosa, io spero che questo petalo di rosa, ogni qualvolta lo vedo, lui mi faccia scrivere una poesia. Una poesia, certo, certo. Questo fiore non colto. Questo fiore non colto. Bene. E tu, Renata? Jessy, proprio il mio guardare, dico oltre, perché? Perché io mi soffermo anche ad ammirare i sassi. Cioè, tutto ciò che è natura mi attrae, mi coinvolge, mi intriga, diciamo. Beh, uno che scrive, sì, perché deve essere colpito anche da un sasso tante volte. Ecco, provate a sentire i miei sassi come sono. Ecco. Sassi, sabbia, sassi, pietre, massi, piatti levigati, consumati, colorati. Camminano, corrono, rotolano, bisbigliano, piangono, urlano. Raccontano la storia, giochi innocenti e preziosi, cattivi e pericolosi, bagnati dal sudore, vestono la vanità, strumenti di viltà nelle mani dell'odio, espressioni creative di pensieri e fantasie, compagni inseparabili di terra e acqua, anima del mondo per l'eternità. Mamma mia, che brava che sei, Renata. Complimenti, veramente complimenti. Ti ho detto che io raggiungo il Montello, lei l'Everest. Raggiungi, dai. Penso sia l'inverso, ma lasciamo stare. No, ma anche lui raggiunge anche lui, sì. Mauro. Cerco, quantomeno. Sì, dai, che dopo mettiamo una bella canzone. Devo... No, prima leggi. Attacco io. Mia terra sempre fa parte della raccolta mia terra. Ho voluto scrivere una poesia a Venezia. Venezia, appari sospesa fra mare e sospiro d'onda, nebulosa essenza da sogno, nei dedali di canali e calli tra i ricami del sole ondeggi. Sospiri nel tremolio del mare, nella risacca dell'abbandono. Fragile, flessibile, come fanciulla desiderata, di impalpabile bellezza. Ma tu la vedi proprio una Venezia, proprio come una fanciulla. Esattamente. Comunque, Venezia ispira tanto, vero? Ispira tutto, è un ricettacolo di arte, d'amore, di sospiro, di sogno, che purtroppo noi veneti la guardiamo poco, la guardano più i cinesi, penso, i tedeschi. No, tutti... Perché la bellezza è come una donna, quando ce l'hai troppo vicina non la apprezzi totalmente. Non la apprezzi totalmente. Più, sì, è vero, invece Venezia... Quando c'è un distacco c'è anche un desiderio diverso, tipo Modugno con la lontananza. Ah sì, è vero, è vero. Avendo saputo, ho nominato un grandissimo cantante che ti piace. Sì. Mi piace moltissimo. Invece noi ci ascoltiamo il nostro Arigliano con Arrivederci. Arrivederci, dammi la mano e sorridi senza piangere. Arrivederci, per una volta ancora è bello fingere. Abbiamo sfidato l'amore quasi per gioco, ed ora fingiamo di lasciarci soltanto per poco. Arrivederci. Esco dalla tua vita, salutiamoci. Arrivederci. Questo sarà un addio, ma non pensiamoci. Con una stretta di mano, da buoni amici sinceri, ci sorridiamo nel dire. Abbiamo sfidato l'amore quasi per gioco, ed ora fingiamo di lasciarci soltanto per poco. Arrivederci. Esco dalla tua vita, salutiamoci. Arrivederci. Questo sarà un addio, ma non pensiamoci. Con una stretta di mano, da buoni amici sinceri, ci sorridiamo nel dire. Arrivederci. Eccoci di nuovo in studio. E questo cantante, è stato a suo tempo, però per me ha un fascino, come mi fa sempre sognare. È così, un cantante strano, un cantante un po' romantico, un po', non so, avete notato anche voi questo cantante? Certo, un po' romantico, ma anche un po'. Ha lasciato il segno. Scanzonato, Jay-Z, anche un po'. Sì, sì. Sì, beh, non è che sia stato. Forse meritava qualcosa in più. Vabbè, allora, chi comincia di voi? Tu, Renata? Va bene, allora concludo con la natura. Concludi con la natura. Ecco, onde. È sempre un fascino che provo davanti al mare, soprattutto quando le onde sono alte. Non solo alte, ma sono con forza. Arrivano alla spiaggia che arrivano, con forza. Sì, sì, sì, sì. Onde assonnate, increspate, salate, bellicose, lunghe, impetuose, brividi degli abissi, prede del vento, dalle rocce violentate, dalla sabbia sedotte. Orride. Onde, stregate dalla luna, dai rimbalzi del sole irettite, nell'escatologico gioco con cielo e terra. Bella. Che bella. Bella, molto bella, molto bella. Sassi e onde fanno parte di una... di un libro, sì, sì, di poesie e favole edito nel 2003. Mamma mia, Renata, come mi dispiace che magari di favole troppo lunghe, sarebbe bellissimo poter leggere una, sì, favola. Certo. Tu, Mauro, cosa ci presenti? Io sto nel stesso discorso di prima, perché non penso che sia il caso, beh, la dirò dopo, una poesia più triste. Sogni. La penombra ritorna, tregua d'un bagliore che acceca. La voce del desiderio sarà più chiara. Ti accetterà la notte fra le braccia, culerà i sogni perduti. È origami d'amore. Molto bella, molto, molto intensa. Origami d'amore è un titolo per una silloge veramente magica. Sì, sì. Mauro, siamo in attesa di questi origami d'amore ormai. Sì, sono giochi. Sì, l'attendiamo con ansia perché ogni poesia di Mauro ti fa entrare già in un universo nuovo. Sì, lui è molto... Ma le tue invece sono molto più, come posso dire, più... Lui, anche lui è romantico, ma no, noi donne siamo un pochino diverse, no? Che mi piace è anche un... normale, naturale. Sì, la sì. La donna è il completamento dell'uomo. Ecco, appunto. Ma lui, però, pur essendo così, è molto, molto gentile nello scrivere. È delicato, sì, e sì, forte allo stesso tempo. Ecco, appunto, sì. È molto, però è anche tanto... proprio gentile nelle sue espressioni, così. C'è una parte femminile che mi intriga di Mauro, perché lui nello scrivere non è solo un uomo, perché io leggo molta poesia, sia femminile che maschile, è logico, e però trovo la differenza tra i maschi soliti e le poesie di Mauro Zanato. Cado. Lui fa uscire la sua parte, sì, delicata, soprattutto. Ma Mauro ha un animo molto gentile, molto, diciamo, sensibile. Non è... Dopo, per carità, ci saranno anche altri uomini. Sono un po' da sbrinare, dai. Sei da sbrinare? Sì, vabbè, da dai, sbrinare. Ti sbrineremo. Sì. Beh, adesso... visto che parliamo anche di questi sbrinamenti, ecco, sì, io leggo parole d'amore, allora. Ecco. Leggi parole d'amore. È l'unica che ho portato... D'amore. D'amore. Perché... dolcemente pensate alle onde dell'etere sussurrate, su petali di rose posate, confuse dentro gocce di pioggia, racchiuse in limpidi cristalli, esplose in fuochi d'artificio. Aspettate, desiderate, sospirate, sognate parole d'amore senza età. Bella, brava Renata, brava. Te la dono, Jessy. Grazie, questa, grazie. È per te. Grazie, molto gentile. Per tutto quello che hai fatto e per tutto quello che sai fare, per tutto quello che continuerai a fare. Grazie, grazie, grazie. Molto gentile. Brava, brava Renata, brava. E tu, Mauro, per poesie, ecco, neanche una per me, tu. Tutte gli origami d'amore te le farò anche va per bene, te. Va bene, dai, va quando, bene. Quando la pubblico. Va bene. Questa è un po' triste, parla della mamma. Sì. Sono due poesie un po' tristi, Morte di piuma e telaio. Ecco, un po' triste perché parla degli ultimi momenti di questa signora, che è mia mamma, che mentre se ne andava aveva perso il lume della coscienza, aveva perso i ricordi, aveva perso un po' tutto. Forse, bravo. Io quando vedo queste persone così, forse che ormai si sono estraniate dal mondo, non per colpa loro, però forse hanno meno paura. Ho avuto un bel ricordo con mia madre quando aveva perso un po' il lume della coscienza, quando andava e veniva, diciamo era artisticamente parlando quasi una frequenza, picchi bassi, picchi alti, quindi mi assomigliava un poco. E ho riconosciuto mia madre specialmente in questi momenti. Pensa. Perché lei ritornava bambina come io lo sono in realtà. Ma sono penso che siamo bambino dentro. Penso che siamo tutti un po' bambini dentro. Appunto. Penso. E quindi ho trovato un avvicinamento d'anima molto forte, non solo perché lei era debole, ma anche perché io in questa sua debolezza mi sono rinforzato. Ti sei ritrovato. E non ho preso la vita come un qualcosa che si disperde e basta, cioè non è una corsa a 100 metri, io vorrei proseguire e avere il fiato per fare anche i 200 e se posso anche i 400 metri piani. Se poi il Dio mi dà il dono degli 800, faccio come Franco Arese e forse riuscirò anche a vincere. Non si sa mai, sai, la vita... Lei aveva aggiunto i suoi 800 metri, è giunta vincitrice e quindi non ha perso nulla, ha perso soltanto la corazza, ma lo spirito rimane comunque. Aveva spirito tua mamma? Sì, aveva molto spirito, sì, era... Non ci incontravamo parecchio, però io ero un po' troppo cattivello, forse. Ai, Mauro, ai. Però sai, quando qualcosa, come il discorso di prima con la donna che è troppo vicino, quando sì, qualcosa sì, sì, sì. ti si sfilaccia, ti manca, ecco, vorresti a tutti i costi riabbracciarla. È vero. E sentirla, e sentire in lei, come il discorso di prima, sempre... quel fiore che non hai saputo cogliere. È vero, perché quando si ha la mamma vicino non si riesce a gustare quello che è veramente... Sì. Però, dai, diciamo telaio, era ricamo della tua vita, quel trastullare le dita sul lenzuolo, annodare, disfare il lembo stropicciato. Ho compreso la speranza e lo sfinimento allungando la coperta a coprirti l'ansante petto. Per un istante i tuoi occhi hanno cercato gioia. Volevi fuggire da quel telaio che ti rinnegava rinnovate vesti. Poi la nuca è sprofondata sul cuscino. Balbettavi nell'incoscienza incomprensibili parole, mentre dita stanche s'allungavano ad accarezzare nuovo tessuto che ancora non ti apparteneva. Da lì a poco, con lieve trucco, vestita da sposa, hai varcato il limite che oggi ti separa. Triste, molto triste, però bella. Bella. È triste, le poesie sono però... fatte anche di tristezza. Sì, bella, è triste, bella. Però pensa alle immagini che ha saputo, che ha saputo cogliere e trasmettere, sì, sì, sulla carta, sì. Veramente mi ha coinvolto, mi ha emozionata. Anche a me è... Però non è triste di per sé, è commovente. Diciamo perché non siamo eterni e non abbiamo questo dono. Per cui questa donna oltre novantenne che ci lascia, e c'è questa speranza. E che oggi ci separa, ma domani ci ritroviamo, lei vestita da sposa mi verrà incontro comunque. Io la penso così. Ma dovremmo pensare anche per vivere meglio, dovremmo pensare che un giorno riabbracceremo i nostri cari. E chi, se non i nostri cari? Appunto. O la mamma, soprattutto. Sì, appunto. È la mia mamma da quando mi è mancata, che sono 20 anni. Chissà perché, adesso la penso molto di più di quando era viva. Gesil, io credo che il cordone ombelicale non si stacchi proprio mai. Penso proprio soprattutto anch'io. E prima di tutto con la mamma. Penso anch'io. Perché ci può essere un rapporto splendido, bellissimo con il padre, e c'è, io l'ho avuto anche con mio padre e vedo le mie figlie che ce l'hanno con mio marito. Però il rapporto che si ha con la mamma va al di là, è un doppio rapporto. Sì, perché la mamma forse coinvolge di più i figli. I figli sono più coinvolti dalla mamma. E i figli hanno vissuto dentro il grembo della mamma. Certo. E sono un tutt'uno con la mamma. Appunto, per cui la mamma secondo me è una cosa che non dimenticherai mai. Lo sai che a gennaio ricomincerò ad andare nelle scuole insieme ad un team di insegnanti e con il progetto Dentro la Vita. Cioè io questo progetto lo sento perché è iniziato con me nel 2003 ancora. Beh, adesso ti ascoltiamo una canzone e poi mi spiegherai meglio com'è questo progetto Dentro la Vita. E allora la canzone che ci ascoltiamo adesso è Carina. Carina, diventi tutti i giorni più carina, ma in fondo resti sempre una bambina che non conosce il dolce gioco dell'amore. Graziosa, nessuna donna al mondo è più graziosa, perché la tua boccuccia deliziosa, se vuole un bacio, non ha il coraggio di mentire. Carina, allegra e spensierata sei carina, ma con il broncio sembri ancora più bella, tu sei la stella che manca in cielo. Perché carina, carina, carina sei tu, simpatica e dolce ogni giorno di più, e col tuo candore carina tu sei fatta per amare. Gioco dell'amore. Graziosa, nessuna donna al mondo è più graziosa, perché la tua boccuccia deliziosa, se vuole un bacio, non ha il coraggio di mentire. Carina, spensierata sei carina, col broccio sembri ancora più bella, tu sei la stella che manca in cielo. Perché carina, carina, carina sei tu, simpatica e dolce sempre di più, e col tuo sorriso carina tu sei nata per amare. Carina, tu sei fatta per amare. Eccoci di nuovo in studio con i nostri due ospiti poeti, Renata Alberti e Mauro Zanatto, che ci dirizzeranno ancora con le loro poesie. Renata, sempre precedenza alla donna. Grazie. Gesi, fra poco è Natale. Sì, fra poco. Ai radioascoltatori io vorrei dedicare questo Natale, perché proprio questa poesia, ne ho scritte parecchie sul Natale, perché questa l'ho vissuta a Londra, questo Natale, anni fa, 7-8 anni fa. Sì. E diverso completamente dai nostri Natali, dal nostro vivere il Natale, però è quello alla fin fine che ha inciso di più dentro il mio essere, te, beh, cioè, diverso, la mia anima. Diverso in che senso? Più sentito? In tutti i sensi, no, perché lì non si vedeva tutta l'esteriorità che c'era qui. Poi capito. Io cercavo il mio Natale, quello che avevo sempre vissuto, e non lo trovavo, ma alla fine l'ho trovato in modo diverso, ma più incisivo. Bene, bene, bene. Gesù, dove sei in questo Natale? È proprio una vera domanda questa, che poi ha trovato la sua risposta. Ti ho cercato dietro luce e festoni, tra scritte e lampioni, nelle strade illuminate ormai deserte, in mezzo a gente affrettata, camminando nel traffico di una Londra impazzita, nelle buie stradine di periferia, in ogni angolo, in ogni via. Ti ho trovato in quella santa notte dentro una chiesa spoglia alla messa di mezzanotte. Stavi là, in un presepe di fresco rosmarino, sopra un altare di bianco marmorino. Ho visto la tua immagine dentro ogni caldo piatto offerto da padre Michael a ogni povero diseredato. Ti ho ritrovato la mattina di Natale, io, Bianca, in una chiesa nera, dentro occhi umidi e pentiti, dentro sguardi perdonati, dentro spiritual e alleluia. Ancora una volta, Signore, sei tornato sulla terra per riportare l'amore che il mondo ha scordato. Bella, molto bella. Hai avuto queste impressioni? Non trovavo il presepe, il presepe che io lo adoro, sì. Non trovavo tutta la coreografia del Natale che però ti fa entrare nello spirito del Natale. Ma lì non fanno il presepio? Guarda, io l'ho trovato sopra un letto di rosmarino, non c'era il muschio, ma lì ho capito veramente che Gesù c'era. Perché poi il sacerdote, un sacerdote inglese, ha invitato tutti i poveri del quartiere e ha offerto loro un piatto caldo e quello che la gente intorno portava come offerta. Pensa un po'. E in quel momento io ho capito che Gesù Bambino era nato lì. Era Natale in quel modo, meno sforzoso, meno... meno tutto, però più e più coinvolgente. Tu hai notato la differenza tra il Natale qui e il Natale là? Sì, qui la messa di mezzanotte tutta piena di luci e di canti, bella, che ti coinvolge e poi non so la gente cosa si porta a casa alla fin fine se non ha qualcosa dentro di sé. Ma a me la messa di mezzanotte ha sempre dato qualcosa di particolare. È sempre stato per me affascinante andare a messa di mezzanotte. Affascinante non l'esteriore, ma quel fascino dentro che ti coinvolge l'anima. La gioia, la luce l'anima, di sapere luce. Che Gesù è tornato ancora una volta. Sì, certo. Forse sai che cosa? Che il Natale ti fa tornare bambina. Io mi sento ancora bambina, Jessy, nonostante i miei 70 anni, io mi sento ancora col cuore fanciullo. Anch'io, e tante volte mi chiedo perché, ma forse è meglio essere così. Tu, Mauro, che ne pensi? Penso che il Natale sia una bellissima cosa. Purtroppo si alimenta un po' troppo il commercio e quindi... Cioè è una festa consumistica. Consumistica, sì. Ma... In tal proposito, guardando la parete l'altro giorno, a me vengono certe cose strane, sì, per la mente e non riesco neanche a trattenerle, però sono tipo favolette che mi fanno ridere e io rido di queste favolette. Hai ragione. Allora. Ho visto un millepiedi che scorazzava, a un certo punto se ne andava così. Per il muro e si è nascosto dietro l'armadio. È lunga la favoletta? No, è brevissima. Dai. Quindi lui però, pensavo dentro di me, aveva dei problemi perché era verso Natale e la moglie, da mille piedi, gli aveva fatto una richiesta particolare, un dono particolare. E allora, cosa vuoi, lui col tempo faceva i straordinari, ritornava a casa sempre come quella volta, sempre dondolante, un po' ondeggiava e poi si nascondeva probabilmente nella sua tana dietro l'armadio. Era come un piccolo pendolare che ritornava a casa un po' stanco. E io mi sono chiesto, ma che cos'ha di tanto strano e di tanto pesante questo regalo? E quasi parlavo con il mille piedi e mi ha detto, mia moglie desidera delle scarpe. E che c'è di strano? Tu pensa a mille piedi e poi mi sai dire se non hai mille pensieri. Ecco, questa è sciocca, però. No, però. Insomma, doveva spendere parecchio. Delle scarpe, noi siamo bipedi, questo è un mille piedi, questa signora. Pensa quanti soldi doveva spendere per le scarpe. Se poi voleva qualcosa anche di... Questo è un Mauro pensatore che io conosco molto bene, ecco, è una meraviglia. Per dire un po' di questo spreco natalizio. Effettivamente. Poi, la bellezza che ha raccontato lei è tutt'altra cosa, ritornare bambini è bellissimo. Ah sì, guarda, ritornare bambini è proprio bello, però il nostro tempo, sapete ragazzi, è quasi scaduto, quindi non ci resta che ringraziarvi infinitamente per aver partecipato a questa trasmissione, per aver accettato l'invito e non so, chissà che ce ne sia. Che in seguito ci sia qualche altra cosa, che possiamo ancora ritrovarci qua e parlare e leggere le nostre poesie e stare in compagnia con i nostri ascoltatori. Intanto io vi ringrazio ancora e se voi volete ringraziare, che voi salutare gli ascoltatori. Grazie Jessy a te, grazie a Blu Radio Veneto che ci ha dato questa opportunità di esprimere i nostri pensieri scritti e un buon Natale a tutti gli ascoltatori. Soprattutto un buon Natale a tutti, un buon Natale alla Jessy, al regista, alla poetessa Alberti e a me stesso, chissà che venga un po' più... Un Natale senza troppo consumismo, ma un Natale più intimo, più... Esattamente. Vero? Esattamente. Ecco, allora... dico agli ascoltatori di passare una settimana, una buona settimana. Noi ci risentiamo domenica prossima, sempre a Dio piacendo. E come sempre io vi dico ciao ciao. Avete ascoltato Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.